America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Tokyo, Mario Platero. Yeah, you know that we were already started to have colpo di scena le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale che si tengono quest'anno a Tokyo. Zhu Chouchuan, il governatore della Banca Centrale della Cina Popolare, ha annullato la sua partecipazione a queste riunioni per protestare una disputa territoriale. La Cina rivendica il possesso di un arcipelago nel mar della Cina orientale, un arcipelago tra l'altro disabitato. Sì, è vero, ci sono delle risorse naturali, è ricco di pesca, ma questo arcipelago, che in giapponese si chiama Senkaku, in cinese Diazhu, devo dire, non dovrebbe meritare un'attenzione simile. Ma torniamo a parlare di economia, perché in realtà Zhu Chouchuan aveva fatto notizia intervenendo proprio ieri sul mercato monetario con una manovra di stimolo di 42 miliardi di dollari, l'equivalente di 42 miliardi di dollari in yuan. E la seconda manovra di alto livello, ce n'era stata un'altra il 25 settembre un po' più grande, la più grande in assoluto in realtà, di 46 miliardi di dollari. La Cina è preoccupata per la diminuzione del tasso di crescita, il Fondo Monetario stima che la crescita cinese non sarà superiore al 7,8% quest'anno. Sappiamo che la Cina era abituata a tassi di crescita del 10%, e dunque diciamo, il governatore poteva presentarsi qui a Tokyo con delle credenziali molto forti per quello che è l'impegno di Pechino per il rilancio della crescita. Non ci sarà. I think if you look at the basic framework they laid in place now, a commitment to move towards fiscal and banking union. Ma di crescita ha parlato anche Geithner e lo ha fatto riferendosi all'Europa. Ci vorranno anni, ha detto, perché l'Europa possa tornare a crescere su livelli accettabili. Ecco, è un po' una dichiarazione polemica quella di Geithner. Secondo gli Stati Uniti, l'Europa non ha fatto abbastanza, non fa abbastanza per rilanciare la crescita, continua a ostinarsi a fare soprattutto politiche restrittive per rimettere ordine nel comparto fiscale. Ecco, questo tema della crescita è uno dei temi dominanti. Devo dire, qui a Tokyo la situazione dal punto di vista del pericolo della crisi, di un ritorno della crisi, è meno tesa di quello che era un anno fa. Si ritiene che le misure adottate dall'Europa siano state delle misure in generale buone, ci si aspetta che l'Europa le rispetti, e dunque ora ci si preoccupa soprattutto di crescita. What exactly would you do differently right now? Well, the problem is you sort of do have to go country by country. Ci sono stati un paio di dibattiti molto interessanti ieri mattina proprio sulla crescita e sulla necessità di trovare un equilibrio fra aggiustamenti fiscali e crescita. David Lipton del Fondo Monetario Internazionale, in uno dei dibattiti, vi ho fatto ascoltare poco fa uno degli estratti, sostiene che questo equilibrio è molto complesso e soprattutto si è riferito all'Europa, l'Europa che deve prendere delle iniziative nel suo insieme. Gli sforzi devono essere regionali, devono essere degli sforzi collettivi, soprattutto per ricapitalizzare le banche. Occorre muoversi, questo è l'ammonimento di Lipton. L'Europa deve andare avanti lungo gli impegni che sono stati sottoscritti al giugno scorso, quando ci fu il G20, ad esempio procedere rapidamente verso la creazione di un'unione bancaria europea. C'è anche la questione del legame fra banche e debito sovrano, che è un legame molto forte. Abbiamo visto che dei paesi che potevano essere in condizioni relativamente buone hanno poi sofferto perché le banche si sono indebolite, poi con l'indebolimento delle banche si sono indeboliti i paesi, si è indebolito il debito sovrano e si è creato un meccanismo perverso. Noi in Italia questo lo sappiamo molto bene. Fra gli altri interventi, quello di Larry Fink di BlackRock, che ha fatto una valutazione interessante, ha detto che c'è un pre-Lehman e un post-Lehman, ha visto le cose dal punto di vista degli investitori, non dal punto di vista dei banchieri centrali o dei ministri del tesoro. Gli investitori inevitabilmente non vogliono mantenere dei titoli in portafoglio sapendo che ci sia un rischio, e la percezione del rischio è cambiata dopo la crisi di Lehman. Pre-Lehman non c'era molta paura, si aveva una certa fiducia nell'equilibrio e nella solidità delle istituzioni e della soluzione istituzionale a certe crisi. Nel post-Lehman, col fallimento di una grossa istituzione, questa fiducia è svanita e nel momento in cui interviene la paura, beh, la paura finisce per ricadere su quei paesi più deboli o percepiti come i paesi più deboli e si creano delle contraddizioni, perché in realtà oggi i paesi, sottolinea Fink, che hanno i tassi di interesse più bassi perché ricevono un flusso di investimenti molto elevati, sono quelli che sul piano tecnico si trovano nelle condizioni peggiori. Il disavanzo pubblico e il debito del Giappone è enorme, molto più elevato di quello di paesi europei che oggi dovrebbero essere considerati in difficoltà. Gli Stati Uniti sono sull'orlo della rupe fiscale, anche loro hanno una situazione fiscale non buona, eppure hanno dei tassi di interesse storicamente bassissimi. Su questo è anche intervenuto il nostro governatore della Banca Centrale, Ignazio Visco. Avete sentito le dichiarazioni in inglese di Visco? Visco ha risposto anche a una domanda della CNN sul futuro della situazione politica italiana e sul rischio che un nuovo governo, votato magari per populismo, possa decidere di fare marcia indietro sulle misure di risanamento, sulle misure del rigore. Visco è stato molto chiaro, secondo lui questo non succederà, secondo lui l'Italia è molto più matura di quello che si può percepire all'estero e dunque ha smentito che possano esserci dei rigurgiti populisti che portino indietro il paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in Giappone, le canzoni, la musica americana in Giappone è molto popolare, non più tardi di un anno fa c'è stato un disco al quale hanno contribuito molti cantanti americani per venderlo in beneficenza e per raccogliere dei fondi dopo il disastro naturale che c'è stato in Giappone, che ha portato poi anche a un incidente in un impianto nucleare. I giapponesi vanno pazzi per il pop americano, Lady Gaga, Justin Bieber, Black Eyed Peas, tutti hanno partecipato a questo disco, ma in particolare la canzone che ha avuto più successo è stata quella di Bob Dylan, una vecchia canzone, Shelter from the Storm. Tokyo è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!